Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ma non vedevo l'ora, perché oggi è una giornata speciale per me. Perché? Perché la iniziamo con un ospite super speciale, la professoressa Anna Maria Colao, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi, grazie intanto dell'invito. Perché un ospite speciale? Perché è, pensate, la prima ricercatrice in Europa a vincere un premio prestigiosissimo, il Geoffrey Harris Award, un premio assegnato dalla Società Europea di Endocrinologia allo scienziato più quotato nel campo della neuroendocrinologia. È così, vero, professoressa? Ecco. Sì, questo è un premio che è stato istituito dalla Federazione delle Società Europee, diventata poi Società Europea di Endocrinologia nel 1988. E sembra, perché guardando ovviamente gli atti del premio istituito, che non l'avesse mai vinto una donna prima di quest'anno, quando la Commissione ha deciso di attribuirlo a me. Quindi siamo felici di iniziare la mattina con lei, secondo me ci porta anche buono. Professoressa, lei si occupa di neuroendocrinologia, qual è il suo campo di interesse? Che cosa studia e perché ha ricevuto questo premio così ambito? Allora, la neuroendocrinologia è quella parte della scienza che mette insieme le influenze esterne attraverso il cervello, quindi la parte neurologica più propriamente detta, che legge la temperatura, la socialità, le relazioni, con la parte più interna, che è quella ormonale, quindi con quelli che sono poi i segnali biochimici che ci fanno emozionare, ci fanno sentire freddo, ci fanno sentire caldo. Ecco, quella è la neuroendocrinologia. Passa tutto attraverso una piccola struttura anatomica che per metà è nervosa e per metà è endocrina, si chiama unità ipotalamo-ipofisi, di cui io mi occupo da quando ero studente in medicina nel 1980. E grazie poi agli studi effettuati in tutti questi anni con il mio team di ricerca, quindi non solo miei ma di tutto un team molto ampio di ricercatori, abbiamo cambiato la terapia dei pazienti con tumori di questa area, di quelli che perdono la funzione ormonale, eccetera eccetera. Quindi diciamo è stato un investimento di tempo e di cervelli piuttosto ampio. Professoressa, lei che studia le relazioni tra cervello, ormoni e intestino, e questo anche l'ambito della neuroendocrinologia, ci svela il segreto per far andare d'accordo questo triangolo? Allora, questa è una bella domanda. Il cervello viene generalmente considerato il primo cervello, non quello che sta nella scatola cranica, mentre l'intestino viene un po' considerato il secondo cervello. Quindi di fatto questi due organi già vengono messi insieme come relazione. E si parlano, vero professoressa? Si parlano tra loro a lungo. Si parlano intensamente attraverso segnali ormonali diretti, perché abbiamo una serie di ormoni che vengono prodotti dall'intestino che vanno a influenzare il cervello, in particolare il rapporto tra fame e sazietà, che passa tra lo stomaco e il primo tratto digestivo, ma si parla anche attraverso un altro sistema che è quello più propriamente immunitario, tant'è che diciamo c'è una branca di questa scienza che si chiama psiconeuroendocrinologia, che mette insieme anche la parte più psichica attraverso il sistema immunitario. Quindi sono tre aree molto strettamente connesse l'una con l'altra, che passano anche attraverso quelli che sono i batteri intestinali più conosciuti come microbiota. Noi ospitiamo quasi 2 chili del nostro corpo fatti di batteri nell'intestino, che scambiano le informazioni sull'infiammazione, sulla nostra capacità di reagire anche agli insulti esterni. Quindi è una relazione molto complessa che si gioca tra i nutrienti, quindi quello che mangiamo, il nostro stato umorale, quindi siamo felici, siamo tristi, siamo depressi, siamo allegri, dormiamo, non dormiamo, con gli ormoni. Quindi la relazione è una relazione che si gioca a molti livelli. Uno dei livelli importanti è il nutriente che noi inseriamo, quindi va sempre fatta molta attenzione a quello che mettiamo dentro di noi. Ai pazienti dico sempre che quello che noi mettiamo in bocca si trasforma in noi, quindi se mettiamo delle cose sbagliate, la nostra macchina corporea poi si trasforma in modo sbagliato. Assolutamente, quindi la salute passa dalla tavola. Molto. Passa dalla tavola moltissimo, passa attraverso i bioritmi, quindi passa attraverso anche un buon rapporto di quelli che sono i ritmi biologici circadiani, quindi luce e buio, certo, il tempo che dobbiamo stare svegli in attività fisica, il tempo che dobbiamo dare al riposo, che è essenziale per il reclutamento di nuove cellule. Quindi passa attraverso quello che si chiama stile di vita, di cui la nutrizione è parte integrante, ma ci sono tante altre cose nello stile di vita sano che non è solo cibo, ma è proprio il rapporto sonno-veglia, il rapporto relazionale, quindi la capacità anche di non essere sottoposti a stress continuo, stress psicologico continuo, che non è proprio semplicissimo. No, è vero, professoressa Colao, sì, gestire lo stress, affrontare periodi impegnativi, proprio stressogeni, molto, molto è complicato. È facile a dirsi, difficilissimo a farsi. Certo, ma noi sappiamo che nello stile di vita, oltre all'attività fisica, oltre alla qualità di quello che portiamo a tavola, dobbiamo mettere anche le nostre emozioni. Siamo fatti anche di questo, non di solo pane vive l'uomo, professoressa, la ricerca lo dimostra. Io ci insisto sempre molto, perché la medicina moderna è molto organicistica, forse io come endocrinologa ne risento un po' meno di questa, no, di questa tendenza organicistica, no? Il cuore, il fegato, l'intestino, il cervello, i polmoni. Dimentichiamo che la parte nostra emozionale, quella psichica, quella più profonda, è altrettanto importante. Quindi noi non, il nostro corpo non è solo una macchina fatta di pistoni, trasformatore, no? Ruote, no. È fatta anche di una componente psicologica e relazionale affettiva molto forte. Dobbiamo cercare di mettere insieme tutte queste cose. Ecco, dobbiamo farci un po' i conti. La neuroendocrinologia c'entra molto in tutto questo. Dobbiamo un po' farci i conti, evitare di silenziare tutte quelle parti di noi, della nostra vita, delle nostre relazioni che ci sembrano inutili perché scomode o perché non riusciamo ad affrontare. Professoressa, lei è la prima donna in Europa a ricevere questo premio così importante e mi sembra anche che sia un bel riconoscimento anche per tutte le ricercatrici che in Italia lavorano con grande competenza e voglio dire notevoli risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Io sono molto contenta di poter portare la voce delle ricercatrici italiane in Europa. Ora, al netto che io ovviamente sono endocrinologa, quindi più conosciuta nel mio ambito, ma che le donne debbano ricevere più attenzione è un dato di fatto. La mia amica Adriana Albini. Ah, anche, anche nostra, fantastica. Ecco, la mia amica Adriana Albini ha costituito una sorta di database delle top scientist donne italiane e credo che bisognerebbe dare rilievo a questa, diciamo, a questa collezione di donne che si sono distinte in tutti i vari campi. Un po' di attenzione in più ci vuole da parte di tutti, perché si finisce per dimenticare quella parte del cervello delle nostre ricercatrici, perché alla fine il nostro sistema paese è un sistema molto declinato al maschile. Non parlo di maschilismo in senso di volontà di tenere le donne fuori, perché non è vero, la gran parte degli uomini non hanno nessun senso maschilista, ma è proprio che il sistema è organizzato in un modo da penalizzare le donne, come orari, come flessibilità, con il fatto che le donne comunque alla fine se sono madri non possono mica dimenticare di essere, non possono star fuori tutto un giorno. Quindi certo, è proprio il sistema che andrebbe ricostruito, considerando che l'intelletto femminile è un gran guadagno per la nostra società. Abbiamo un modo diverso di risolvere i problemi, no? Abbiamo professoressa Colao, questa emergenza Covid ci ha, secondo me, insegnato e dimostrato che abbiamo bisogno del lato femminile, che non si ritrova solo nelle donne, però il lato femminile mi sembra che questo sia un bisogno che è emerso e anche proprio questo femminile ci permette di vedere le cose, i problemi anche da un altro punto di vista, che credo sia importante. Sì, devo dirti che c'è stata proprio una lettera fatta da un gruppo di ricercatrici, alcune proprio parte di questa Top Women Scientist di Adriana, che ha sottolineato il punto che nei vari comitati tecnico-scientifici, un po' più organizzativi del governo, le figure femminili erano veramente molto molto limitate, e grazie anche a questa lettera una delle top women scientist è stata inserita, che è Elisabetta Deiana, e un'altra mia collega di Federico II, che è Rosa Marina Melillo, è entrata nel CTS, quindi voglio dire grazie anche un po' di giusta promozione. Certo, bisogna farlo. Le linee, certo. Un minimo di ascolto poi ci è stato dato, quindi vuol dire che parlarne e discuterne è importante. L'epidemia ha dato un segnale molto forte al nostro paese, l'abbiamo pagata molto questa epidemia, sia in termini di vite umane che di riorganizzazione, che in termini economici. Ancora non si vede una via d'uscita reale alla recessione economica che è in corso. Quindi utilizzare tutti i cervelli che abbiamo a disposizione penso sia l'unica cosa da fare. Insomma, non vedo altre possibilità. Professoressa, e la sua esperienza lo insegna, ma lo insegna la ricerca, il lavoro di squadra è fondamentale ed è un lavoro di squadra che permetterà anche al nostro paese di andare avanti. In questi giorni la parola, no? La parola chiave è ripresa. Professoressa Colao, al termine di questa nostra chiacchierata, dopo che abbiamo cercato, no, di fare andare d'accordo, di far comunicare il cervello, gli ormoni e l'intestino, questo triangolo così prezioso per la nostra salute, qual è la sua ricetta per la ripresa? Come la declina nel campo della ricerca o nel suo campo specifico? Ma devo dire, nel mio campo specifico, io personalmente come i miei collaboratori abbiamo lavorato durante tutto questo periodo, non abbiamo avuto nessun tipo di stop, ma del resto come tutti i medici siamo stati impegnati nel nostro lavoro. Certo, c'è in atto un gran problema perché i pazienti non Covid sono stati un po' messi in secondo piano, adesso abbiamo delle liste d'attesa che si sono allungate a dismisura e prima di riuscire a prendere di nuovo in carico tutti i malati sarà abbastanza complicato, ma ce la metteremo tutta perché lavorando anche ad agosto per cercare di ridurre quanto più possibile questo gap che si è creato durante i periodi di lockdown, che sono stati, voglio dire, quello è stato un periodo indispensabile, non ce la saremmo cavata senza un periodo di lockdown, quindi c'era poco da discutere nel periodo dell'epidemia acuta. Adesso si può cominciare invece a ragionare anche cercando di facilitare un po' con la flessibilità, con l'ingresso un po' più rapido. Noi abbiamo una burocrazia che non vi potete rendere conto, il sistema sanitario è stato burocratizzato in un modo che per noi medici è veramente insostenibile, e parlo, io sono un medico universitario, quindi voglio dire, se non altro una struttura di terzo livello con un tipo di lavoro che non è quello del mio amico medico di medicina generale, che certo, è stato veramente in una difficoltà terribile nel periodo dell'epidemia. Quindi credo che uno sforzo che si debba fare per migliorare il nostro sistema sanitario, che già è un sistema d'eccellenza, questo lo voglio dire chiaramente, io quando dico possiamo migliorare non voglio dire che ci sono degli errori o che ci sono delle cose che non condivido, ma semplicemente dire possiamo essere ancora migliori di quello che siamo. Una delle cose che io chiederei è di sburocratizzare, di rendere più semplice l'accesso, più snello, più agevole, del malato, più veloce. Oggi io ne parlavo con la mia azienda, possiamo comprare attraverso un click di un sito sul nostro telefonino qualunque cosa nel mondo. Non vedo perché con un click non si può pagare una visita di un medico in una struttura ad e esempio, dobbiamo fare 40 moduli diversi. Brava. Impiegando 30 persone di un'amministrazione che non c'è perché non possiamo fare i concorsi, e questo allunga l'arrivo del paziente magari, da noi. Ecco, cosa non è sempre... riesco a capire. Io devo dire, io questa cosa qui proprio non la riesco a capire. Professoressa, cose semplici a volte bastano a risolvere dei problemi che sembrano molto complessi. Io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata e spero torni a tutti e a tutti gli ascoltatori presto. Auguro una splendida giornata. Bene, per oggi è tutto. Saluto Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi do appuntamento come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che per l'appunto arrivano dal mondo della ricerca. Ci sentiamo.